Parliamo con l'elefante di Giuliano Ferrara. Buongiorno, 800 24 00 24, la più grande e divertente, folle avventura legislativa, politica, di governo da molto tempo a questa parte. Si chiama decreto legge misure urgenti per il rilancio dell'economia attraverso la ripresa delle attività imprenditoriali edili. È quello che alcuni chiamano il piccone risanatore del governo Berlusconi, altri chiamano il premio cubatura. È un progetto, diciamo, del potere esecutivo, del governo, da realizzare naturalmente solo se esiste una maggioranza parlamentare che approva questo decreto, per la deroga generalizzata, cioè a certe condizioni naturalmente tecniche si deroga all'impianto di governo attuale del territorio, le leggi urbanistiche, i piani regolatori, e si dà la possibilità agli italiani che sono in grandissima maggioranza, quasi l'80% o più dell'80%, proprietari di una casa, quindi hanno un patrimonio, no? E che sono grandi risparmiatori, cioè che hanno poi la liquidità sufficiente per operare, gli si dà la possibilità di ampliare, perché insomma questa poi è la cosa vera che il decreto prevede. È consentito, dice l'articolo, il comma 1 dell'articolo 2, l'ampliamento dell'unità immobiliare mediante la realizzazione di nuovi volumi e superfici in deroga alle disposizioni legislative, agli strumenti urbanistici vigenti o adottati ai regolamenti edilizi, eccetera, eccetera. C'è chi prova orrore per questa prospettiva, che dice che appunto è la quintessenza di una concezione, come dire, di governo dell'Italia, del paese, in spregio alle regole che sono, diciamo, o dovrebbero essere le grandi protagoniste dello sviluppo urbanistico di un paese moderno. Una roba da pazzi, addirittura si dice è un condono anticipato, non una liberalizzazione, come tecnicamente in realtà è, ma una sorta di sanzione dell'illegalità attraverso il varo di un decreto legge. Però basta che guardiate oggi il giornale che l'ha azzeccata, le pagine 2 e 3, il giornale di Milano, però è una legge che entra proprio dentro la curiosità, le ansie, la voglia, diciamo, di fare e di rivalutare il proprio patrimonio e forse anche di investire i propri quattrini in un momento di crisi, in un momento in cui cala l'occupazione, in un momento in cui le misure di crisi sotto il profilo sociale sono considerate, azzeccare quella giusta, ecco, è considerata una cosa di straordinaria importanza. Se prendete il giornale, vedete, fanno 10 domande e 10 risposte. Le domande sono proprio le domande che si fa, diciamo, qualunque cittadino italiano, capofamiglia, risparmiatore, proprietario di casa, e sono molti, molti milioni. Posso realizzare una stanza in più? Quanto tempo ho a disposizione? La mia casa rientra nei requisiti? A chi mi devo rivolgere per saperlo? Ho una casa monofamiliare fuori città, che lavori posso eseguire? Vivo in un condominio invece, vorrei ingrandire l'alloggio, posso? Voglio rendere abitabile il sottotetto, si va nel dettaglio, e se i condomini si oppongono? Ho una casa in rovina e disabitata, se la abbatto posso poi ricostruire? Che vantaggi ho? Ho una casa soggetta a vincolo, cosa devo fare per ampliarla? Insomma, si entra dentro un grande gioco collettivo che potrebbe, secondo i critici, deturpare il paesaggio italiano e introdurre un elemento proprio bastardo, diciamo, di violazione sistematica delle regole di buon vicinato, di buona convivenza, di buono sviluppo e sostenibile, oppure invece appunto il piccone risanatore, il premio cubatura, volano di una ripresa economica che, secondo il Cavaliere, secondo Berlusconi, tutti ci invidiano e in Europa vogliono ardentemente consultare, facendoselo mandare dalle nostre ambasciate per copiarlo. Adesso vediamo, tra esagerazioni, ridimensionamenti, realismo, perché poi questo piano, questo decreto deve ancora affrontare la trattativa tra il governo e le regioni che avverrà domani, vediamo di stare bene informati su questo grande gioco del premio cubatura. Bene, abbiamo al telefono il ministro Raffaele Fitto. Raffaele Fitto è strategico stamattina, ascoltarlo, sentirlo, perché diciamo, gestisce il rapporto tra il governo e le regioni Questa legge, il premio Cubatura, 800240024, vi ricordo il numero per telefonarci, questo premio Cubatura, questa legge in deroga, questo decreto legge deve passare questo vaglio, duro, difficile. Domani c'è la conferenza Stato-Regioni. Se lo prendi adesso nella bozza del 19 marzo 2009 che ho sotto mano, Ministro Fitto, buongiorno. Buongiorno. E lo leggi in tutti i suoi articoli e commi, beh, insomma, sembra un decreto legge rivoluzionario, nel senso che appunto, insomma, la deroga c'è tutta. Il sistema anche non per eludere i controlli, ma per imporre che i controlli siano subordinati all'urgenza del rilancio dell'economia è stato trovato con questo termine capestro, 30 giorni per le sovrintendenze e per i comuni che devono dare il loro consenso o il loro rifiuto, no? La legge del silenzio assenso. Ma se stanno zitti, se non rispondono, lo si prende come un consenso. Però il sospetto è, Ministro, le facciamo questa domanda, il sospetto è che poi taglia, cuci, negozia, le regioni rosse minacciano di ricorrere alla Corte Costituzionale. Franceschini, ecco quello che ha detto ieri Franceschini, ve lo faccio sentire perché è stato molto duro. Purtroppo abbiamo visto la bozza proposta dal governo che porterà mercoledì al tavolo con le regioni e direi è peggio di quello che aveva annunciato Berlusconi nella sua prima affermazione, il 20% di metri cubi in più a tutti, perché lei il decreto è palesemente incostituzionale, perché questa materia è di competenza delle regioni. E il comma 2 dell'articolo 1 dice: le norme del presente decreto trovano applicazione su tutto il territorio nazionale sino all'emanazione di leggi regionali in materia di governo del territorio. Quindi tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in materia di loro competenza vedono entrare immediatamente in vigore una norma con un decreto legge che produce effetti immediati, cioè dal giorno dopo si può cominciare a costruire. E poi le regioni, nei tempi che serviranno, andranno ad adeguare le loro normative. Nel frattempo si è già costruito tutto. Ecco, col suo simpatico accento ferrarese, Franceschini dice la bossa caput, non va bene, è incostituzionale. Allora, Ministro Fitto, arriverà la bossa al Consiglio dei Ministri di venerdì e verrà approvata nella sua sostanza, oppure tra una mediazione e l'altra si è mosso Formigoni, il presidente della Lombardia, eccetera. Sappiamo il peso delle amministrazioni locali e delle regioni governate dalla sinistra, obiettivamente va riconosciuto, insomma, la loro è anche un'obiezione legittima. La montagna partorirà il topolino? Ma io penso che il metodo che il governo ha scelto di portare avanti è un metodo corretto anche nei confronti delle regioni. Io non comprendo sinceramente, o meglio, la comprendo e la valuto come una indicazione politica preconcetta, il fatto di stabilire e di indicare già un rilievo di incostituzionalità, perché non si può dichiarare la incostituzionalità sullo strumento, cioè il decreto legge, anziché il disegno di legge, lo si può individuare all'interno del contenuto dello stesso. Se così è, e se così dovesse essere secondo la posizione delle regioni, noi siamo convinti di esserci mossi in una linea invece corretta. L'incontro di domani serve ad evitare questo. Il governo non ha varato un testo e lo ha portato successivamente all'attenzione delle regioni. Il governo ha scelto una strada diversa. Ha scelto la strada di inviare preventivamente questo testo, di chiedere un confronto, ecco, con le regioni. Ecco, Ministro, ma è proprio questo quello che preoccupa. Senta per esempio Paolo da Macerata. Paolo. Buongiorno. Paolo, lei è un piccolo imprenditore edilizio e ha il sospetto che poi alla fine non se ne farà nulla, mi pare di capire dalla scheda che mi... Beh, sì, direttore, lei ha centrato il punto, nel senso che se ne parla già da ormai da un mese di questa cosa qui, però purtroppo fra ritagli a destra e ritagli a sinistra è chiaro che si rischia quello. Io voglio dire, cioè, che partorisca. Ma perché la lei è pessimista? Perché pensa che alla fine... Sono pessimista perché purtroppo l'idea di Berlusconi, molto, diciamo, positiva, viene come al solito poi ricattata politicamente. E poi alla fine faccio una considerazione io come impresa edile. Noi siamo oramai alla frutta, ma questa casa, piano casa, non è che salvaguarda solo le imprese edili in senso lato, questa salvaguarda i falegnami, i serramentisti, i fabbri, certo. Perché i condomini tutto sommato cosa possono fare? Possono fare delle verande. Ora, diciamo la verità, c'è tutto un indotto, un mini indotto frammentario, no, un grande indotto, un grande indotto, direttore, perché i condomini fino ad oggi tutto sommato le verande le hanno sempre fatte, tranne le zone vincolate, ma se lei va in giro per tutti i condomini d'Italia, nelle periferie, sono già piene di verande abusive. Tutto sommato questa legge lo regolarizza. Nel caso invece delle case tipo i ruderi, tipo case bruttissime fatte negli anni 50-60, cosa si dice? Io te la abbatto, cioè la puoi abbattere, la rifai, quindi sì. Guadagniamo nel senso capito. Stesso. Adesso ecco. Poi entreremo nel merito, diciamo, del decreto stesso. Adesso stiamo parlando della sua fattibilità politica. Grazie. Gaia Carretta, lei ha riferito, e lei è giornalista, sta riferendo in cronache quotidiane quello che succede. Secondo lei come andrà a finire questa cosa Stato-Regioni di domani e poi... Ma secondo me andrà a finire bene. Alla fine venerdì sarà presentato un decreto legge al Consiglio dei Ministri e molto probabilmente lo approveranno. Ma il piano Formigoni di mediazione lo snatura questo decreto oppure gli lascia la robustezza, la forza che chiedeva il piccolo imprenditore edile che ci ha telefonato da Macerata, Paolo? Il piano Formigoni chiede sostanzialmente corresponsabilità, cosa che è già successa tra le regioni e il governo in passato con gli ammortizzatori sociali, cioè le regioni hanno dato un tot denaro che avevano a disposizione per coprire i fondi per la cassa integrazione. Credo che succederà bene o male la stessa cosa, perché si tratta sì di un decreto su una materia che può essere considerata che è delle regioni, di competenza delle regioni, però è anche vero che si tratta di una norma studiata per affrontare la crisi e quindi di una norma transitoria e economica soprattutto. Sì. Quindi, e soprattutto c'è grande attenzione da parte di cittadini e grande aspettativa. Lei dice che c'è una pressione popolare che alla fine orienterà anche le decisioni delle giunte regionali, anche di quelle rosse. Sì, tant'è vero che loro che chi fa opposizione non la fa sul merito, ma la fa sul metodo, sul decreto. Franco Carrer, che si è già segnalato nelle discussioni ampie televisive, quelle a notte fonda di Porta a Porta, come caro, lei è architetto e docente di urbanistica all'Università La Sapienza di Roma, ha scelto di difendere questa deroga. È spaccata la corporazione degli urbanisti e degli architetti. Alcuni dicono: ma come si fa a difendere un provvedimento di questo genere? Ma io più che scelto di difendere, ho scelto di capire. Perché tra, come diciamo oramai, indignati a prescindere e entusiasti a prescindere, io ho cercato di comprendere. Quando ho letto e ho studiato mi sono reso conto che la situazione era molto diversa da come veniva raccontata dagli indignati a prescindere. Indignati a prescindere, fra l'altro, lo voglio ricordare, che già si erano ampiamente mobilitati nell'estate scorsa, quando il governo approvò la finanziaria estiva della legge 112, decreto 112, poi trasformato in legge 133, che aveva già tutto dentro, sostanzialmente. E anche lì c'era la svendita del patrimonio pubblico, eccetera, eccetera. Però non c'era la deroga, non c'era lo strumento. Non c'era questo, ma già se diciamo in estate questa l'indignazione certo, in Italia si indigna sempre. È bene ricordarlo. Sì. È bene ricordarlo. Per esempio, sentiamo Patrizio da Bologna, le do un esempio di indignazione. Patrizio. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Mi pare che lei non abbia molta fiducia in questo decreto legge. Assolutamente no, perché io ritengo, da giovane, che questo è un disastro culturale organizzato dalla solita cricca di persone palazzinari e politici loro affini che cercano solo di far soldi, approfittando della crisi, ma gli italiani non hanno soldi, quindi cosa si va a dire agli italiani di aumentare del 20%? E poi l'altra cosa. C'è una deroga questa qua. Scusi, c'è un'obiezione su questa cosa che lei ha detto. Gli italiani non hanno soldi, inutili dargli la possibilità di ampliare il 20% di Franco Carrer. Ma l'Italia pare che sia, adesso non voglio dirlo con certezza, pare che sia uno dei paesi nei quali il risparmio delle famiglie è più consistente. E quindi è non è vero che non hanno soldi. Non è vero che non hanno soldi. Patrizio, vada avanti. No. Io volevo solo dire un'altra cosa. Dal momento che si è parlato tanto di dare un po', delocalizzare un po' il potere in qualche modo, darlo alle regioni, distribuirlo alle regioni in qualche modo, anche con le ultime proposte di legge, allora si va a imporre in un processo del genere una deroga con effetti immediati che va in pratica a fare una violenza alla potestà delle regioni virtuose, perché le regioni che non sono virtuose, che hanno sempre fatto i loro comodi assecondando il malessere, andranno avanti come sempre, gli altri invece vengono fregati. Va bene, grazie Patrizio. Maria Antonietta da Napoli la pensa diversamente. Prego Maria Antonietta. Pronto? Sì, da voi gli abusi edilizi sono, diciamo, una cosa abbastanza frequente, no? Sì, ecco, per questo io ho telefonato, perché io vivo in una zona dove gli abusi edilizi sono all'ordine del giorno e mi vedo sfondare piani più alti davanti alla mia casa, ampliamenti di terrazzi, addirittura costruzioni abusive. E io sono contentissima di questo decreto legge, perché anche io, che sono una cittadina che cerca per quanto possibile restare nelle regole, potrò usufruire di questa possibilità. Io ho una casa di circa 180 metri quadrati con un giardino, ma ho 4 figli. Ecco, questo è un appoggio, Maria Antonietta, la legge è un po', diciamo, peloso, nel senso che lei dice gli altri fanno gli abusi e io adesso posso fare, diciamo, quello che si può considerare un abuso edilizio, però con il conforto della legge, il che naturalmente rende forte la posizione di chi si oppone a questa legge. Per esempio il grande architetto Massimiliano Fuxas, che è con noi al telefono. Architetto Fuxas, buongiorno. Ha sentito, Maria Antonietta dice, vabbè, io sono circondata da piani che si rialzano, condomini che si ampliano, premi cubatura che la gente si prende, diciamo così, con la forza abusiva, e adesso finalmente anch'io posso curare un po' i miei interessi, però diciamo nei limiti della legge. E effettivamente questo argomento sembrerebbe portare acqua all'appello che lei ha firmato insieme con Gaia Ulenti ed altri architetti italiani contro questo decreto. Ma nell'ambito però delle discussioni di questi giorni c'è qualcosa che le fa cambiare opinione, che modifica la sua posizione negativa di partenza? Guardi, la mia posizione è una posizione negativa, una posizione possibilista, una posizione invece ottimista e positiva. Allora, cominciamo da quella positiva. Io credo che una legge che affronti il problema della casa d'affitto, ecco, principalmente della casa sociale, che è un tema che abbiamo dimenticato negli ultimi quasi mezzo secolo, dall'epoca di Amintore Fanfani, è una delle cose più importanti. Io avrei messo, se fossi stato il governo, 10 miliardi di euro per un piano di 10 anni, di 5 anni, per risolvere il grave problema della casa d'affitto che si vede, perché quando non c'è un tetto la crisi diventa ancora peggiore. Questa è la prima cosa, questo è un fatto positivo che abbiamo iniziato a discutere di questo, ci sono 550 milioni che sono stati recuperati da un fondo che era stato tolto, vabbè, in ogni caso ci sono 550 milioni, poco però sì. La seconda parte della legge è un po' più complessa, è quello che dice premio di ricostruzione quando si demolisce un immobile vetusto. Allora, sì. Prima di tutto bisogna capire quando sono vetusti, poi bisogna capire meglio che cosa, perché immobili vetusti ci sono, immobili dell'Ottocento straordinari, anche del Novecento, c'è la cultura del modernismo, c'è tantissime cose, il movimento moderno ed altro. Ma la cosa più importante... Ma io credo che qui si parli, non so, della palazzina brutta, del Tuscolano a Roma o del Grado Soglio, non del modernismo architettonico. Che c'entra, è difficile mica... il censimento, io credo bisognerebbe quasi fare un censimento di idee, perché c'è moltissimo da demolire e da ricostruire, a certe cose anche da demolire e basta. Poi c'è un fatto ancora in più, che la proprietà italiana è molto frammentata, la proprietà edilizia è frammentata, è difficilissimo far funzionare un condominio, quasi impossibile demolire un edificio, trovare la ricollocazione per gli abitanti e ricostruire. Allora, su questo qui ci sarebbe molto da dire, certo, cioè delle discussioni. Certo. In ogni caso si tratta sempre di una delega che hanno le regioni e quella all'urbanista, lì si vedrà che cosa fanno le singole. La cosa sulla quale, infatti, nell'appello che abbiamo scritto e sottoscritto, sì, non si parla di cementificazione come gli ultimi arrivati alle sponde del centrodestra, cioè non quelli storici, ecco, vogliono, sì, che dipendono sempre il vincitore, vogliono. Lì si parla di istituzioni, che è una cosa molto diversa. Cioè, io vorrei che ci fosse un controllo, dato che in Italia già non c'è un controllo, già è difficilissimo agire, ci sono stati 9 milioni di abusi e tante altre così, dire fai da te è come dire, beh, affidiamoci, è meglio affidarsi allo Spirito Santo. Ho capito, cioè lei non è ottimista come Berlusconi, che ha detto mi affido al buon gusto degli italiani. Lei dice, ci credo, no, perché i 9 milioni, se uno fa un giro nel territorio, si capisce che questi italiani il buon gusto l'hanno dimenticato nel 1400. Va bene, grazie. 800 24 00 24. Stiamo parlando del piano casa, del premio cubatura, del piccone risanatore, chiamatelo come volete. Se dal numero di telefonate che arrivano noi adesso estendessimo la trasmissione cancellando il resto del palinsesto, potremmo andare avanti fino all'ora di colazione, forse fino all'ora di cena. Luigi da Rovigo per Franco Carrer. Pronto? Lei ha una domanda precisa. Sì. Io volevo chiedere questo. Un paio d'anni fa, sul confine del mio terreno dove ho una villetta, ho costruito una casetta che adesso il comune mi ha ingiunto di demolire. Sì. Volevo chiedere questo: se va in porto il piano casa, il decreto piano casa, io la dovrò comunque demolire oppure no? Cioè, decreto sì. È superiore come forza all'ingiunzione del comune oppure no? Credo di no. Sentiamo che Carretta. No, non mi ricordo esattamente qual è l'articolo, però la deve demolire. Carrer se lo ricorda, credo. Ma qual è l'articolo? No, ma comunque è nella logica generale, perché non sono applicabili questi provvedimenti premiali agli edifici. Articolo 5, realizzati... comma 1, lettera B. Gli interventi, esatto, non possono essere realizzati sugli immobili abusivi oggetto di ordinanza di demolizione. No, non si può, Luigi. Mi dispiace, oppure forse tutti dobbiamo essere contenti. Comunque non si può sanare quell'abusivismo con questo decreto legge. Franco Carrer ha sentito le obiezioni di Fuxas e diciamo... Tra l'altro lei mi diceva che è incredibile il grado di interesse del pubblico per questa questione. Lei è andata porta a porta, non vive più da allora. Sì, devo camminare con gli occhiali da sole, cosa che non faccio mai. Ho una posta una casella di posta elettronica strapiena di richieste di aiuto. Ma la cosa che impressiona di più è che sono proposte da soggetti deboli, problemi connessi alla mobilità di portatori di handicap, persone che hanno capacità di vista ridotta, che hanno bisogno di affacci di luce migliori, cioè una situazione davvero incredibile. È emersa una realtà di una tale complessità che non immaginavo neanche io. Pure sapendo, avendo visto che molte regioni già in passato per esempio hanno fatto norme di questo tipo a vantaggio proprio dei portatori di handicap, consentendo appunto facilitazioni per risolvere queste problematiche, accessi, ampliamenti, eccetera. Però qui si tratta di un decreto, diciamo gli spiriti animali, ecco, chi lo appoggia e chi lo avversa, tutti sono comunque d'accordo nel dire questo decreto, se verrà varato dopo gli accordi, le mediazioni, i compromessi con le regioni in una forma che più o meno somiglia alla bozza di cui stiamo discutendo e che abbiamo citato, questo decreto rilancerà in termini spontanei un flusso di quattrini privati che verrà immesso dentro l'economia italiana in funzione, come dicono i tecnici dell'economia, anticiclica, cioè contro gli incubi della crisi il decreto sarà efficace. Sì, ne è sicuro, Carrer, sì? Ma io ho l'esperienza recente del recupero dei sottotetti del Centro-Nord, una legislazione che è partita da lì, che poi si è diffusa anche nel resto d'Italia, che ha prodotto una quantità enorme di investimenti. Investimenti di piccola dimensione, quindi di modulo connesso proprio alle capacità delle famiglie o dei piccoli condomini, eccetera. Io sono abbastanza convinto che sia così, anche perché è una riforma a costo zero e è una riforma che in qualche modo completa, seppure senza un grande disegno probabilmente iniziale, questo va indubbiamente detto, riconosciuto, la strategia complessiva che si è venuta a determinare, partendo proprio da quanto ricordava Massimiliano Fuxas sulla finanziaria estiva, che aveva recuperato fondi, ne aveva aggiunti degli altri per il vero piano casa, quel piano appunto intorno ai 550 milioni di euro, poi probabilmente saranno purtroppo meno, sì, date le disponibilità, che riguarda gli affitti, le giovani coppie, eccetera, eccetera, al quale si aggiunge questo intervento a costo zero che dinamizza la proprietà, che fa uscire appunto dalle casse private risparmio. E contemporaneamente c'è la terza questione, quella della vendita dei patrimoni immobiliari pubblici, sulla quale pure andrebbe discusso, perché lì probabilmente c'è la linea di minore coerenza con le tendenze europee, perché questo decreto, misure urgenti, eccetera, eccetera, è l'avvio di una politica di rinnovo urbano. anche se in modo mentre abbastanza... secondo lei il fatto di vendere le case pubbliche meno... secondo me no, perché le case pubbliche purtroppo oramai sono troppi anni che lo facciamo, ma sì, le case pubbliche sono state realizzate su terreni un tempo periferici e oggi centrali. Basterebbe recuperare quei plusvalori, riportarli dentro al ciclo per avere una forte capacità di alimentazione di nuove politiche abitative. Ho capito. Ministro Fitto, per dirla in modo chiaro, qui abbiamo messaggi, diciamo, entusiastici, messaggi anche critici, molto critici. Voi non avete paura passare alla storia, alla fine, dico, una volta approvato il decreto, una volta fatte le opere, come coloro che hanno deturpato il volto dell'Italia? Ma assolutamente no. Io vorrei ricordare, come è stato detto poc'anzi, che il governo si è mosso su diverse situazioni. La prima è quella dello sblocco dei 550 milioni di euro per il piano casa vero e proprio, per gli interventi sul fronte dell'edilizia abitativa. L'abbiamo fatto con un'intesa con le regioni anche lì, quindi il metodo del confronto alla fine è servito, ha dato una risposta positiva in quel caso, così come è stato ricordato prima dalla giornalista anche nel caso degli ammortizzatori sociali, quindi è un metodo che va salvaguardato e portato fino in fondo. Io penso che dalla lettura del testo si possano dare molte risposte anche ai dubbi e alle perplessità, e il fatto di poter dire no al radioascoltatore di Rovigo in modo molto chiaro rispetto a quello che lui ha posto come problema, cioè il fatto di una sanatoria di un abuso con questo decreto, ed è no chiaramente, ed è stata data la risposta precisa, dimostra che i rischi che vengono indicati sono assolutamente estranei ai contenuti e agli obiettivi di questo decreto. Però, Ministro, non so se possiamo rassicurare nello stesso modo Massimo da Roma. Massimo? Massimo, sì. Sì, ma io sento tanto parlare di soldi, di investimenti e di altre cose. Una questione fondamentale pongo, ma la sicurezza chi la tutela? La sicurezza su sopraelevazioni, palazzi che possono essere sopraelevati o case con costruzioni o fondamenta non confacenti a ulteriori carichi. Questa chi la tutela? Chi la tutela? La tutela il progettista che responsabilmente firma il progetto. Perché non se no va in galera? Sì, deve ricalcolare la struttura, deve verificare le fondazioni, deve mettere a norma tutto dal punto di vista della sicurezza, eccetera. È una fortissima responsabilità. Qualche anno fa, proprio quando fu introdotta la DIA, che aveva già questo principio nel disegno originale, la dichiarazione di inizio attività. E i professionisti furono molto ostili, guardate che non furono tanto contenti, perché il processo di responsabilizzazione è molto forte, perché attraverso il permesso di costruire in qualche modo si determina corresponsabilità con l'amministrazione. Con la dichiarazione di inizio attività è tutta sua la responsabilità, tanto che probabilmente una delle modifiche che subirà, sempre che questo disegno proceda, il testo unico sull'edilizia, prevederà proprio che si svolga una sorta di dialogo tra l'amministrazione e il progettista che dovrà presentare una dichiarazione di inizio attività, in modo tale che l'amministrazione preventivamente dica cosa davvero si può fare, perché orientarsi nella selva delle leggi urbanistiche italiane, nelle discipline locali, eccetera, è davvero molto complesso. A volte neanche le amministrazioni sanno davvero interpretare cosa è scritto nelle regole. Fuxas, a lei che è un architetto, diciamo, capace di stare sulla scena pubblica, nel senso che sa intervenire, anche pubblicista, va nei mezzi di comunicazione di massa, eccetera, eccetera, vorrei fare un'obiezione tutta politica, e la farei attraverso Romolo da Roma, un entusiasta di questo decreto legge. Poi le farò l'obiezione, ma prima sentiamo Romolo. Romolo. Sì, buongiorno. Buongiorno. Sì, io sono entusiasta perché, uno, ho un piccolo manufatto fatiscente di circa 40 metri, lo posso buttare giù e crearci un mini appartamento per un ragazzo, per un figlio che ho. Perciò qui non c'è. In questo caso lei può ampliarlo fino al 35%, bene, soprattutto 50, se fa una roba ecosostenibile, sì, come sì. Si dice. Adesso ho capito, non ho mai capito perché, che vuol dire. Perché gli infissi che chiudono. Adesso ho capito perché la sinistra sta sparendo. Il partito del no. Io parlando con amici idraulici, falegnami, dice non vedono l'ora che rimettono in moto questa piccola economia, perché qui mi vengono a dire che non ci sono soldi, qui si tratta dei 15-20 mila euro, e uno può chiedere benissimo un piccolo prestito da famiglia e si risolve un problema. Ma ve lo dico una cosa, io abito a Roma, andate al Pigneto, a San Lorenzo, a Tor Fiscale, case fatiscenti, abbandonate, che si possono recuperare senza andare a prendere altro terreno. Perciò non è vero di questa cementificazione. Ho capito. Grazie Romolo. Fuxas ha capito la mia obiezione. La mia obiezione è questa. Uno magari sta sui grandi standard costruttivi, abitativi, sui grandi principi, l'Unione Europea, eccetera. E poi però arriva un decreto legge di un governo, diciamo, che sa quando vuole anche essere populista, insomma, sa schierare il paese contro l'establishment che vive di regole in nome dei bisogni, e arrivano questi bisogni parcellizzati, piccoli, locali, si diventati che però vogliono esprimersi. Ha sentito Romolo cosa diceva? Diceva: ma qui tutti, il falegname, il carpentiere, tutti vogliono che riprenda la mini industria edilizia che, come si sa, è decisiva per lo sviluppo economico. E lei cosa dice a questo proposito, Fuxas? Guardi, io sono stato sempre uno contrario alla politica dei vincoli e mi sono scontrato per decenni contro l'ideologia dei vincoli, quelli assurdi che hanno portato molti disastri, però anche cose positive, però in gran parte disastri. La rigidità porta sempre poi dall'altra parte 9 milioni di case abusive, questo è quasi il sillogismo. Quello che io ritengo in questo caso, nel caso di Romolo, che nulla questo, io credo che ci sono verande da coprire, basta guardare i tetti delle grandi città di Roma, ma anche Parigi, ma anche di Milano, le superfetazioni sono state cose che non hanno mai fatto gravissimi danni. Certo, il problema è di stabilità. La stabilità non può essere garantita da un architetto, da un geometra o da un ingegnere. Secondo me già la legge incomincia a diventare un guazzabuglio quando si entra nella sovrintendenza, nei regolamenti edilizi, le inclinate, tante altre cose, i diritti dei terzi, diventa veramente un guazzabuglio, è difficile gestirlo. Sì. Però io non sono mai stato uno di quelli che ha attaccato chi si copre una veranda o chi si fa una terrazzina. Qui architetto Fuxas c'è un'obiezione, no, ho capito la sua risposta, ma qui c'è un'obiezione, ministro Fitto, che è questa. Voi dite un mese alle sovrintendenze e altrettanto ai comuni per esercitare il loro potere di controllo. Aspetti, ministro, ma il punto qual è? Che l'obiezione è questa, dice, ma è talmente la cosa riguarda talmente tante famiglie, talmente tanti inizi attività, che è assolutamente impossibile con questo termine dei 30 giorni garantirsi la possibilità che venga esercitato un controllo. Ma io penso che sia importante leggere il provvedimento. Allora, cominciamo col dire che all'articolo 2,3 si fa un riferimento chiaro alla normativa relativa alla stabilità degli edifici. Poi c'è un intero articolo, l'articolo 5, che indica in modo specifico tutti i vincoli e le limitazioni che ci sono, che sono tantissime. Vorrei ricordare che non c'è la possibilità di sommare i due interventi dell'articolo 2 e dell'articolo 3. Vorrei ricordare che in questo dato anche collegato alle vicende e alle critiche che sono state fatte sugli eventuali sanatorie, c'è un comma dell'articolo 2 che richiama in modo specifico la data del 31 dicembre del 2008 in forza di titolo abilitativo. E in questo senso vorrei dire anche che quando parliamo dei 30 giorni parliamo degli immobili siti nei centri storici non soggetti a vincoli, e quindi qui c'è la denuncia di inizio di attività che deve essere presentata alla competente sovrintendenza. Quindi voglio dire, se noi teniamo conto e leggiamo nel dettaglio tutti gli aspetti che sono indicati, vediamo che questo testo è un testo molto molto attento a quei rischi che vengono indicati, che non ci sono in nessun dato e non emergono in nessuna situazione. Quindi io, prima di esprimere un giudizio, così come ho ascoltato, di rischio rispetto a questi elementi, vedere nel dettaglio come tutti i vincoli sono ribaditi, tutte le limitazioni sono rafforzate e di come ci siano esclusivamente alcuni interventi che sono indicati con delle procedure che semplificano, perché poi c'è anche un dato. Sì, sì, ho capito, lei dice è una deroga, certo, ed è un sistema di deroghe, ma sorvegliato. Il sistema è abbastanza inquadrato all'interno di vincoli e limiti che sono richiamati in modo... Speriamo che lei abbia ragione. Sì, sì, ce l'ho qui sotto mano, l'articolo 5 con tutti i suoi bravi commi. È un articolo lungo e dettagliato che entra in diversi vincoli che creano delle condizioni di inedificabilità, di vincolo assoluto, sì, l'abbiamo è molto visto, dettagliato, quindi circoscrive anche l'ambito di intervento del quale noi parliamo. Va bene. Marco da Pesaro introduce un nuovo tema dentro questa discussione calda sulla questione del piano casa del premio Cubatura. Marco. Buongiorno, sono Marco di Pesaro. Io parlo del risparmio del territorio, proprio una cultura urbanistica della conservazione e del controllo ha generato lo spreco del territorio, nel senso che si è intervenuto in questi 20 anni declamando contro la cementificazione della città su tutto il territorio, si sono rovinati pezzi di campagna, paesi, ogni paese ha avuto la sua zona industriale, la sua espansione edilizia, il suo piccolo intervento, e questo ha generato in 20 anni una distruzione del territorio. Questa è la genialità di questa legge, proprio che interviene dove il territorio è già stato occupato, e questo è l'elemento veramente importante di questo sistema, cioè finalmente anche in Italia si interviene all'interno di un territorio già occupato, urbanizzato. Questo significa meno costi, in generale meno costi della collettività, nel senso che la collettività risparmia nel tempo tutti i servizi e le cose che costano invece gli interventi fuori, che hanno generato grandi disfunzioni economiche all'interno di ogni città. Questo è il mio pensiero. La ringrazio. Marco, vorrei con Carrer e Fuxas discutere quest'ultima cosa, e cioè la città verticale, il rilancio della densità territoriale. Per anni c'è stata questa idea che per fare una buona pianificazione territoriale bisognava accumulare territorio ed estendere gli interventi, le costruzioni, no? La storia, un pezzo di verde, insomma, l'idea, no? E adesso invece va molto di moda, io non sono un intenditore del settore, l'idea no, ma bisogna, anzi, il grattacielo è meglio crescere verticalmente e soprattutto dare più densità, naturalmente con certe regole, con certi paletti, al costruito, intervenire dove c'è già il costruito. Non c'è dubbio, l'idea del battir la ville sur la ville, cioè ricostruire la città su se stessa, è lo slogan, ma è anche la politica, appunto, vincente. Ce lo dicono le grandi città nel mondo, ce lo dice l'Unione Europea con i libri bianchi e verdi sulla città, eccetera. Questa tendenza alla ridensificazione è forte anche in Italia, era stata anche praticata qualche anno fa sulle aree pubbliche. Sicuramente ha ragione l'ascoltatore che questa è la strategia vincente, però una politica di rinnovo urbano vera comporta conservazione, abbattimenti e ricostruzioni e ristrutturazioni. Sono tre piloni, diciamo così, sui quali si fonda. Purtroppo in Italia si fa una fatica enorme a fare questo. Tutti i tentativi sono falliti, senza ritornare al passato del piccone demolitore, in quel caso, di Mussolini, che comunque nella sua perversità era comunque una forma di politica urbana. Abbiamo avuto un tentativo alla fine degli anni 70 con la 457, i piani di recupero, praticamente fallimentari. Abbiamo avuto poi dei tentativi successivi fatti dalle regioni di scarsissima salienza, e abbiamo avuto poi per il precedente governo Berlusconi un continuo promettere questa pianificazione, appunto, del recupero attraverso i cosiddetti piani di riabilitazione urbana, si era usata questa espressione un po' curiosa. Abbastanza così spontaneo si avvia questa politica che va incalanata. A lei l'ultima battuta, perché è l'oppositore che deve sempre avere... Guardi, l'oppositore che cosa dice? Dice che se io fossi un politico direi che Berlusconi ha avuto una pensata geniale, perché a pochi mesi dalle elezioni europee dire agli italiani potete fare legalmente quello che avete fatto illegalmente è geniale. Ma quello che invece dice il non politico, dice l'architetto, è che bisogna, secondo me, ripensare ai quartieri abitativi, ripensare a un modello di vita, di sicurezza, di città. la scala è molto più grande. Io credo che sulla veranda, guarda, io non le voglio, neanche la voglio vedere, non voglio neanche, chiudo gli occhi, ecco, però voglio assolutamente che si faccia un piano per 3 milioni di persone che oggi non hanno una casa in affitto, che sono vecchi, giovani e nuove coppie e tanti altri gente. La crisi sociale non può reggere la crisi abitativa, questo è il mio punto di vista, perciò facciamo sperimentazione, ricerca, andiamo avanti su questo, io sono pronto a mettere tutte le mie energie, a dire sempre sì fino alla fine dei miei giorni, però facciamo qualche cosa che abbia un peso importante su quello che vuol dire la città oggi, la città per tutti noi. Va bene, grazie molto Architetto Fuxas, grazie al Ministro Fitto, a Francesco Carrer, a Gaia Carretta e a tutti voi che avete telefonato. Ci vediamo domani, ma prima la menzione quotidiana di Franca Fossati e Gloria Guerrera in redazione, Paolo Corleone e Filippo Aureggi in regia, linea al GR e poi a Gianluca Nicoletti con Melog 2.0. A domani, baci.